L'idea è stata di lanciare un segnale politico molto chiaro anche da Bologna, da una città che da sempre si dimostra aperta, accogliente e che, come recitava lo striscione della manifestazione di associazioni e sindacati di sabato in piazza, non si vuole arrendere all'odio. Quindi davvero prima di tutto una presa di posizione politica contro un decreto assolutamente ideologico che incita all'odio verso i migranti. In particolare questo decreto potrebbe avere delle ripercussioni anche sugli enti locali e anche sui territori. Sì, la nostra non è solo una presa di posizione, diciamo, per ribadire dei valori di accoglienza, di pace, di convivenza possibile, ma anche per denunciare che se davvero quelle norme andranno avanti ci sarà un impatto forte sui comuni, anche in termini economici. Si stimano solo per il comune di Bologna 4 milioni di euro in più da trovare per pagare al posto dello Stato comunque quelle prestazioni di tutela dei soggetti più vulnerabili, come ad esempio i minorenni stranieri non accompagnati, che comunque per fortuna in base alla Costituzione, alla legge e alle convenzioni internazionali dovremo continuare ad assicurare. Se non sbaglio, 2 anni fa il comune di Bologna iniziò un piano per la conversione di tutti i centri di accoglienza straordinaria in SPRAR, che è il sistema, diciamo, migliore di accoglienza. Ora che con la legge, appunto col decreto legge che è in discussione, lo SPRAR rimane una cosa residuale, insomma, viene di fatto smantellato. Quali potrebbero essere le ripercussioni su questo piano comunale? Sì, in effetti uno degli effetti più concreti di questo decreto sarebbe quello di smantellare il sistema di accoglienza ordinaria, strutturata, che si è costruito a Bologna. Ormai si parla di un modello Bologna a livello nazionale, tanto che passano ogni anno migliaia di migranti in città e nell'area metropolitana e i cittadini quasi non se ne accorgono, per invece in cambio potenziare con questo decreto le strutture di accoglienza straordinaria. L'effetto sarebbe quello di grandi concentrazioni di migranti in strutture eccezionali. Insomma, il paradosso, ma purtroppo voluto politicamente per lucrare consenso sulla paura dei cittadini, è creare l'emergenza che non c'è. Ti faccio una domanda più politica, perché ieri il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno, diciamo così, simile, con richieste simili a quelle approvate a Torino, dove la Giunta e la maggioranza è del Movimento 5 Stelle, mentre a Bologna gli esponenti del Movimento 5 Stelle non hanno votato, sono usciti dall'aula. È così, tra l'altro non è la prima volta che sui temi, sia quelli eticamente sensibili che sui diritti civili, il Movimento 5 Stelle a Bologna non partecipa al dibattito, non partecipa al voto, esce dall'aula, insomma si sottrae al confronto per prendere una posizione chiara. Beh, d'altra parte ieri non ci potevamo che aspettare il solito comportamento, perché comprendiamo il loro imbarazzo, perché da un lato a Roma votano in Consiglio dei Ministri questo decreto vergognoso e dall'altro a Torino invece, dove poi ci sono, come in tutti i comuni, le ricadute concrete paradossali di quelle norme, votano per chiederne la sospensione. E sono evidenti ormai e sempre più esplosive le contraddizioni interne al governo e alle forze giallo-verdi che lo sostengono.